Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nelle pagine dell'inserto culturale Domenica del Sole 24 Ore, in edicola oggi, trova posto un'intervista di Lara Ricci al premio Nobel per la letteratura Nadine Gordimer, sudafricana. Nella lunga conversazione con l'autrice di La figlia di Burger, L'aggancio e Sveglia, trovano spazio i temi dell'apartheid, un ritratto di Nelson Mandela e naturalmente il senso dello scrivere per Nadine Gordimer. La strada che dall'aeroporto porta a Johannesburg è sventrata dai lavori per gli imminenti mondiali di calcio. L'11 febbraio saranno passati 20 anni da quando Mandela è tornato un uomo libero, 15 dall'insediamento del primo esecutivo eletto da tutti i sudafricani, bianchi e neri, quasi altrettanti dalla Coppa del Mondo di Rugby che sancì la vittoria arcobaleno delle locali Springboks e del neoeletto presidente Mandela. Da allora il partito al governo è sempre stato l'ANC, l'African National Congress. Vicino all'università, il taxi si ferma in un quartiere di ville sprofondate in alti giardini, Parktown West. Sono davanti alla casa di un'anziana donna bianca, Nadine Gordimer, vate e vestale del moderno Sudafrica. Con la sua prosa epica ha raccontato la lotta all'apartheid e la difficile costruzione di un nuovo paese. La sua scrittura magnifica è stata di grande beneficio per tutta l'umanità, scrisse il comitato del Nobel quando le assegnò quello per la letteratura nel 1991, 2 anni prima che il suo amico e compagno di partito, Nelson Mandela, vincesse quello per la pace. Non c'è campanello. All'interno di una casa bianca, semplice ed elegante, mi accoglie una donna minuta, dallo sguardo fermo, che non può avere 87 anni. Eppure è lei. Sua figlia vive in Italia, insegna inglese in una scuola di Mondovì, racconta davanti a un panettone. A cosa sta lavorando? Non ne parlo mai prima di aver terminato. Neppure a mio marito raccontavo quello che facevo. Non mi sono mai confrontata con lui. E a volte servono 2 anni per finire un romanzo. Lui era la prima persona che lo leggeva, ma ha sempre rispettato il fatto che la scrittura fosse qualcosa di privato. Lei ha sempre mantenuto separate le sue dichiarazioni politiche dalla sua narrativa. Come essere umano, come cittadina del mio paese, sono stata coinvolta in tutto quel che avveniva intorno a me, che è stato così significativo dal punto di vista politico. Non era possibile avere una vita privata. Vivere durante il periodo dell'apartheid mi ha fatto vedere le idee politiche come parte della mia vita, proprio come alcune persone vedono la religione parte della loro. Io sono atea, ma penso che certe convinzioni impongano una direzione alla vita. E per me, nella condizione di conflitto in cui ero nata, essendo parte di una società che opprimeva gran parte della popolazione, era naturale considerarmi coinvolta. Durante l'infanzia ero circondata dall'enclave bianca. I miei genitori, come molti altri, non si mescolavano con nessuno che non fosse bianco. Appena ho cominciato a vedere che c'era qualcosa di strano e sbagliato in questo, è iniziata la mia educazione politica. E da adulta sono diventata membro dell'African National Congress. Ma non ho mai permesso a me stessa di trasformare la mia scrittura in propaganda politica. Dovevo mostrare la vita e le persone nella loro complessità, e i miei compagni politici hanno rispettato questo proposito. Quando ho mostrato le debolezze e gli errori del movimento di liberazione, non mi è mai stato contestato. Qual è stata la prima esperienza che le ha fatto ritenere sbagliato il modo in cui viveva la popolazione bianca? Quando ero bambina e vivevo in un piccolo paese, una notte fummo svegliati da un rumore che proveniva dal cortile, dove si trovavano le stanze della servitù. Allora avevamo una donna a cui io ero molto affezionata. Tutto quel che possedeva era stato distrutto dalla polizia. Volevano accertarsi che non fabbricasse birra, perché all'epoca ai neri era vietato comprare alcol e molti lo producevano in casa. Mia madre e mio padre non sfidarono la polizia, che era fatta di bianchi e di neri agli ordini dei bianchi. La polizia non trovò nulla e se ne andò, ma fu un episodio molto triste che ispirò uno dei miei primi racconti. È così che diventai consapevole di quel che non andava nella nostra società, del razzismo. Lo vidi accadere nella mia casa. Poi, quando avevo 20 anni e prendevo il treno ogni giorno per andare all'università a Johannesburg, per la prima volta diventai amica di un nero, anche lui scrittore. E andammo a Soweto, il ghetto dei neri. Entrai nelle loro case e vidi come vivevano. Nei suoi libri si trovano spesso figure eroiche. Chi sono gli eroi di oggi? Chiunque combatta contro razzismo e oppressione in ogni paese, perché è sempre pericoloso. Oggi non ci sono più forme di oppressione aristocratiche, ma esistono nuove forme di prevaricazione. Che dire, ad esempio, dei dittatori? Anche in Italia ne avete avuti. E della corruzione? Anche da noi ora ce n'è. Eppure non pensavamo potesse arrivare nel nuovo Sudafrica. Ed è una grande disillusione vederla in coloro che un tempo hanno lottato per l'indipendenza. È ancora in contatto con Mandela? Sì, ma ora lo vedo raramente. È anziano e ha bisogno di tranquillità. Lei fu una delle prime persone che lui volle vedere quando uscì di prigione 20 anni fa. Fui una delle prime che incontrò. Lo conoscevo da molto tempo, da quando era sotto processo. Lo incontrai in tribunale e il nostro rapporto continuò. Poiché il mio libro, La figlia di Bruegger, venne contrabbandato in prigione, lui lo lesse in carcere e tramite il suo avvocato difensore, Nelson mi scrisse una lettera per dirmi quanto avesse apprezzato il mio testo. Dopo la liberazione l'ho visto abbastanza spesso. Davvero non riesco a pensare cosa sarà questo paese quando lui non sarà più con noi. Anche se non ha più una vita pubblica, Mandela è sempre con noi, così come lo era quando restò in prigione tutto quel tempo, 25 anni sull'isola e 2 o 3 anni in altre carceri. In qualche modo, abbiamo sempre saputo che lui c'era e che prendeva parte in tutto quel che accadeva qui. Dopo 15 anni di governo da parte dell'ANC, qual è il bilancio tra i sogni e quel che è stato fatto? Quando c'è una lotta di liberazione, si pensa sempre che raggiunto l'obiettivo sarà tutto meraviglioso. In questo paese fu la prima volta che tutti votammo. Quella notte, dopo le elezioni, abbiamo festeggiato, ci siamo ubriacati, baciati e abbracciati. Finita la festa, c'è però la mattina dopo, il mal di testa e tutto il resto. Ma allora non avevamo pensato a cosa avremmo fatto dopo. Avevamo solo una cosa in mente, liberarci dell'apartheid. Non c'era tempo di preoccuparsi delle cose che ci avrebbero creato difficoltà. E a me fa piacere ricordare alle persone in tutto il mondo occidentale che noi questo gennaio abbiamo celebrato i primi 15 anni dalla fine dell'oppressione dei neri, che iniziò nel 1652. A noi si chiede di aver cambiato tutto in 15 anni. Ma io rispondo: dateci una possibilità. Voi che in Europa avete avuto centinaia di anni per creare le vostre democrazie, ancora lontane dall'essere perfette. Non è una scusa per giustificare quello che non abbiamo raggiunto. Abbiamo costruito migliaia di case, ma tantissima gente ne è ancora senza. Siamo indietro nei servizi, come l'acqua e l'elettricità. Abbiamo fatto solo una piccola parte di quel che serve. Mancano le scuole, le classi sono troppo numerose. Spesso i professori non sono abbastanza preparati. Nelle campagne, talvolta, non ci sono neppure i bagni. E un paese che non sa offrire educazione non si può sviluppare. C'è crisi al momento, ma la situazione è migliore di prima. Perché ora un ragazzo che proviene da una famiglia con appena un po' di soldi può andare a scuola, laddove ci sono i servizi. Ma se nasce nelle township, non ha accesso a niente. Lo Stato non arriva. Abbiamo anche problemi con gli ospedali. Sono accessibili a tutti, ma sovraffollati e senza personale sufficiente. Abbiamo fatto alcune cose buone, nel limite dei pochi soldi che avevamo e del breve tempo a disposizione. Eppure, come in altri paesi, ci sono sempre abbastanza soldi per la difesa e per gli equipaggiamenti militari che non ci servono. C'è sempre una sproporzione tra questi fondi e quelli per l'educazione. Ma c'è una cosa senza prezzo che non avevamo: una stampa libera. C'è chi sostiene che è in preparazione una legge per mettere in piedi una sorta di censura. Chi lo dice? È falso. Non abbiamo alcun tipo di censura. L'unica cosa vietata è incitare alla violenza. Per esempio, quando il nostro attuale presidente non era ancora alla guida del paese, ma occupava già posti molto in alto nel governo, diede una festa nella sua bellissima casa. Al termine, una ragazza figlia di un suo stretto compagno nel movimento di liberazione si è fermata per la notte e lui ha avuto un rapporto con lei. Lei lo ha denunciato dicendo che l'aveva violentata. In tribunale lui ha affermato che non era violenza, poiché lei era vestita in modo provocatorio. Inoltre, siccome le aveva dato il bacio della buonanotte, ha detto che era nella sua cultura, la cultura Zulu, far sì che se una donna è eccitata e non so come potesse essere eccitata da un bacio della buonanotte, debba essere soddisfatta. In ogni caso, Zuma sapeva che lei era HIV positiva, ma ha avuto un rapporto con lei senza preservativo e ha dichiarato che dopo il rapporto si è fatto una doccia per prevenire l'infezione. Che messaggio è questo per i giovani? Da allora un vignettista di Città del Capo pubblica una vignetta in cui, a prescindere dall'argomento, ogni volta Zuma compare con una doccia sopra la testa. Questa è libertà di stampa. Lei ha rifiutato un premio per scrittrici donne. Sì, perché non credo ci siano differenze nel cervello di uomini e donne che rendono diverso il modo di scrivere. Non esiste un premio per scrittori uomini né per gay o lesbiche. Perché devo ricevere un premio per il fatto di essere donna? Io sono una scrittrice, non una donna scrittrice. Avete ascoltato la lettura dell'articolo intervista a Nadine Gordimer di Lara Ricci, dal titolo Dateci una possibilità di democrazia, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, oggi in edicola. Come fare ad abbandonare un romanzo a metà lettura senza avere sensi di colpa? Lo spiega Filippo Laporta in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera. Sicuri che dobbiamo sempre terminare un romanzo? Non penso a uno dei tanti diritti del lettore codificati enfaticamente da Daniel Pennac. Non c'è mica bisogno di teorizzare la sacrosanta libertà di abbandonare un libro, nel caso in cui ci annoia. No, intendo la possibilità di lasciare a metà anche la lettura di un romanzo che ci appassioni. Cos'è? Una provocazione dadaista? Tutt'altro. Su Babelia, supplemento culturale del País, lo scrittore colombiano Santiago Gamboa ha dichiarato, con qualche temerarietà, di adorare i libri di Philip Solles e Thomas Bernard, ma senza averli mai terminati. Per lui, infatti, leggerne 100 o 200 pagine è esattamente lo stesso. E suggerisce un parallelo gastronomico. Se una minestra ti piace, non è che per apprezzarla di più devi svuotare l'intera pentola. Ti basta una scodella. Così in quei libri non conta lo sviluppo della trama, ma il sapore, la temperatura speciale, lo stato d'animo, la visione del mondo. Non si estendono in senso orizzontale. Un'argomentazione che userei volentieri contro la riduzione della letteratura a puro intreccio, specie nella attuale monomania italica del noir. Non nego che il mercato ci offra accattivanti macchine narrative, ma non esauriscono l'intero orizzonte letterario. Due esempi al di sopra di ogni sospetto. Lo straordinario autore cileno da poco scomparso, Roberto Bolaño, e Antonio Pascale, che considero tra i maggiori scrittori italiani contemporanei. Confesso di non aver finito alcuni dei loro libri. Del plot, più o meno ingegnoso, non mi importava niente, mentre amavo il loro stile e il loro sguardo. La musica spaesante e familiare della prosa, la capacità di mostrarci le cose come se fosse la prima volta. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Filippo Laporta, Che bello questo romanzo, lo leggo solo a metà, dal Corriere della Sera del 2 febbraio.